giorni, che era quello di espedire nel corpo tutte le cose che abbiamo fatto, quindi diciamo l'idea è quella lì di, un po' l'avete già fatto, vedo, l'avete visto, è stato un po' allestito questa stanza, perché questo è il luogo che ci ha accolto, che andavamo nel piccolo luogo, abbiamo visitato tanti luoghi, e l'idea è proprio di alzarci adesso e fisicamente nello spazio muoverci attraverso i giorni, attraverso le esperienze che abbiamo fatto, ogni giorno le abbiamo un po' scritte, un po' ci sono gli oggetti, insomma c'è un po' testimonianza di tutto quello che è accaduto, che è diventato un po' materia, anche il mio cellulare è diventato, perché l'ho lasciato due volte per due qui, quindi l'ho messo in allestimento anche lui. E quindi insomma l'idea è adesso di prenderci 5 minuti in cui proprio vaghiamo un po' nella stanza, riconnettendoci con quello che è stato, quello che appunto, è successo in tutti questi giorni, e provando un po' ancora una volta a centrarci, prima di disperderci, cosa che sta un po' già succedendo, e prima di disperderci concentriamoci ancora, però ci concentriamo, ieri siamo concentrati su tutte le cose del mondo, adesso ci possiamo, proviamo a concentrare su tutto, l'esperienza con cui siete arrivati, insomma i vari giorni, gli incontri con gli ospiti, le ospiti che abbiamo avuto e anche le vostre notti che non conosciamo, perché non abbiamo fatto una. E le nostre notti che non conoscete, queste qua. Quindi niente, adesso ci alziamo e insomma parliamo. Sì, no, totalmente in silenzio, perché è un po' ognuno con ogni se stesso con. la bambolina, tu. Ah, sì. Quella mi comparirà un po'. Sostituire la porta dimenticata a casa. Sì, per me. Sì, devi spiegare. Thank you. Infatti ho visto che c'è stato proprio un po' una carica delle porte e allora abbiamo pensato che questo potrebbe essere il modo per cominciare a avviare questa riflessione che faremo adesso. Sì, allora adesso faremo un piccolo momento in cui riprendiamo la domanda che abbiamo fatto all'inizio, quindi abbiamo chiesto cosa vedete al di là della porta alla fine di questa settimana, quindi cosa vi aspettate, e avete scritto un sacco di cose stupende. E adesso noi non chiediamo a nessuno di voi, cioè nessuno di voi è obbligato a dire cosa ha scritto, quale sia la sua porta, assolutamente. Se volete condividere quelle che erano le vostre aspettative potete farlo. E poi quello che ci interessa sapere è effettivamente cosa avete trovato alla fine aprendo questa porta, alla fine di questa settimana. Quindi vi domandiamo un piccolo momento, possono essere poche parole, può essere una suggestione, può essere una cosa pratica che avete fatto, può essere un suggerimento per noi. E stando in massimo produttività, perché purtroppo se no tutti quanti perdiamo l'autobus, faremo questo piccolo momento di discussione che funziona in questo modo. Solo chi è all'arancia di Sant'Antonio può parlare, quindi Alba mi ha passato l'arancia. E come funziona? Quando una persona ha finito di fare la sua restituzione, può o consegnare l'arancia a un'altra persona che parlerà quindi dopo di lei, oppure se una persona può quale parlare, può alzarsi lei e venirsi a prendere l'arancia. Tutte le altre persone invece resteranno in silenzio ad ascoltare. E in questo modo cerchiamo un pochino di parlare un pochino di tutte, tutte e tutti. Aggiungere solo una cosa. Dalle varie cose che abbiamo fatto, il territorio bianco, dove c'è appunto la diversità delle vivette, se nel parlare c'è una parola in particolare che ti colpisce o detta qualcuno, detta voi potete, diciamo, cosa che vi è consentita, di non parlare, però andare a scrivere sul cartone bianco che adesso dice prenderà, in maniera totalmente libera. Ah, ci conoscete? No, ecco, anche scherzo, un cartone immaginario. Iniziamo. E qui c'hai tu, ce l'hai in mano. Ce l'ho io. Ok, inizio io. Ma allora io mi aspettavo di avere, non so, le manifestazioni di piedi. Allora, ma io mi aspettavo sicuramente un incontro di tante vite, di tante realtà diverse, e quindi l'ho avuto. Mi aspettavo più disagi, ho pochissimi disagi di questa. Sono stata molto positivamente sorpresa solito è una cosa un po' complessa, per cui di solito mi tiro abbastanza indietro sì, in favore degli altri, nel senso mi riesco a facilmente trovare il mio ruolo, e invece è stato sorprendentemente facile e molto divertente, che per me non è una cosa scontata trovare, diciamo, il divertimento in questo tipo di attività, e soprattutto in un contesto, diciamo, complesso, cioè di grande diversità tra noi. E forse sì, questa è stata la parte che mi ha, come dire, dato veramente una grande soddisfazione, per cui tutto il resto è passato un po' in contorno e poi gli ha dato un senso. E prima di passare voglio dire che Giulia, che è andata via, aveva lasciato delle cose scritte, ma dopo chi vorrà leggerle, penso. Magari possiamo mettere la arancia. Imita la voce di Giulia. Allora, Giulia, c'è stato questo bel pensiero. Se c'è un punto di Allora, mentre mi allontano sulle ruote, respiro profondamente. L'ho fatto più volte prima di salire in macchina. L'aria fresca del mattino pettina i pensieri. Immagino tutto questo mentre mi sento vociare nella stanza accanto. Non sono proprio nel qui e ora, ma sono un po' nel passato e un po' nel futuro, con i segni che trovate qui. Alcuni raccolti da me, altri da voi, e tutti assieme un giardino in potenza, una radura ingusta. Ci ho pensato maglia, verso, cielo, seme e giardino, innesco e potenza. In questi giorni assieme aspetto la fermentazione che arriverà in silenzio a ricalibrare l'efferescenza del mio corpo. Salgo sul treno con le foreste alle spalle e fine i polmoni. Faccio la tossina un paio di volte, mentre aspetto l'alba. Li penso assieme, li penso nei vostri luoghi ogni minuto. Ci penso maglia, verso, cerco, semi e giardino. Grazie di cuore, Giulia. Quindi Giulia l'avrebbe chiesto. Allora, io ogni volta, non che abbia fatto tantissime esperienze, però magari anche per il lavoro che faccio, a volte in nave diventa un'altra comunità, anche molto più simile, costretta a stare in uno spazio di gusto, che 10-12 persone, più equipaggio, più altre persone, quindi è un equipaggio che si crea comunque sempre. E comunque comunità. Io quando faccio queste cose qua sono sempre grata, al fatto che ho potuto intanto vivere l'esperienza, conoscere persone quasi sempre belle, direi sempre belle, e sono grata perché attraverso queste persone, ovviamente molto diverse da me, si affaccia in me qualcosa che era in me e che però non sentivo, non vedevo, che probabilmente era in qualche modo sopito, ma che mi apparteneva. Quindi se incontro un giocatore e ho fatto già esperienze di questo tipo, ricordo, mi viene qualcosa poi da portare avanti quando ritornerò, magari un gestore più difficile, un ricercatore anche diverso da me, magari mi può dare dei suggerimenti, e poi l'artista, non che sia artista, però la parte creativa che ho è tutto, insomma, molto stimolante. Quello che dico a voi, a me, è di provare, quando torniamo, faremo subito inglobati, fagocitati dalle nostre vite, di provare proprio di metterci, direi quasi come compito, ogni tanto di ritornare qua con un pensiero a questa bella settimana che ho per tutti, a questa esperienza che abbiamo avuto insieme. Grazie. Grazie. Accostato all'avvicinarsi del saluto, beh, per me è sicuramente il proprio in termini proprio di emotività, ecco. Io mi aspettavo convergenze, ho scritto, e sicuramente, diciamo, le ho sentite tutte, e anche se vogliamo quelle che mi aspettavo quando ho visto la call, il banco, la presentazione, quello che era. Cosa dicevo in questi giorni abbastanza rara, ecco, che poi uno senta che quello che si aspettava lo ha trovato, ecco, e ha trovato anche probabilmente molto di più, questo molto di più, abituato ai tempi lunghi, diciamo. Io dicevo ieri a Raffaella, faccio molto fatica a elaborarlo adesso e ho bisogno di sedimentazione. Sicuramente, come appunto è emerso tra Guglielmo e Deborah, in termini di convergenze ho faticato a darmi a tutti e tutte nella stessa maniera, e anche per limite mio personale, e quindi in qualche modo tenterò, non so bene come, tra i drive, che cosa, i contatti personali, di tornarci e di tornare anche su di voi, diciamo. E, oltre che col pensiero, spero, e questo è un inciso così, cioè proprio di augurio, anche fisicamente. non so in che forma, non so quando e se ci sarà l'occasione, però ecco, è una speranza che mi ha. Spero di non farvi perdere il bus, di non farci perdere il bus. Allora, cioè, proprio riparto dall'arancia perché, come diceva qualcuno in qualche conversazione precedente, la bellezza di questa arancia non è solo insieme al fatto che tutti l'hanno toccata, tutti se la sono passata e tutti l'hanno passata con cura, con responsabilità, fiducia, presenza. E ovviamente non riporterò questa arancia perché biologicamente, però ho la chiave che ieri sono passata, che dovrebbe avere un tempo di vita, di emivita più lungo dell'arancia, e che ha lo stesso principio, cioè questa esperienza, come chiedeva forse Andrea qualche sera fa, non sarebbe, cioè lui ci chiedeva, ma la presenza degli artisti, la presenza di persone non scientifiche, secondo voi com'è stata? Non sarebbe stato lo stesso, cioè il rivive è stato questo e sarebbe stato peggio senza, perché è così, cioè, e quindi quando ho visto proprio l'idea del fatto che ognuno si è passato la chiave, ognuno ha messo del suo in questo percorso, e non è una frase fatta, è proprio quello che penso, cioè quello che è stato è così. E io tra le varie porte ho segnato quella lì, tutto quello che sapevo sulla biodiversità era un fiorellino. Adesso la biodiversità vedo sia nel vivente esterno, ma anche in questo, cioè anche questa è biodiversità, cioè nel senso, per quanto siamo della stessa specie, però abbiamo tanta diversità, quindi figurati là fuori quando ci sono specie diverse, quanta biodiversità c'è. E mi è piaciuto tantissimo sentire ognuno, cioè, che appunto ci ha messo del suo in quello che vedeva, nelle lenti che usava per guardare il mondo, e questo me lo porto a casa. Grazie. Allora, come sono arrivata? Sono arrivata sicuramente con delle aspettative che riguardavano più la mia sfera professionale, perché diciamo, nel mio lavoro di ricerca, quando si è inserita anche la parte di didattica, ho sentito proprio quanto era importante saper trasferire competenze e comunicare per arricchire chi ci stava intorno e quindi per cercare un po' di cambiare il mondo. Sì, l'aspetto è diciamo, che l'obiettivo, lo so che è anche ambizioso, però io nel lavoro che faccio ho questa ambizione, cioè che il mio lavoro serve a cambiare un po' il mondo. Quindi avevo dato queste aspettative rispetto a incontrare competenze che potevano aggiungere strumenti comunicativi a quelli che io ho già possiedo. E invece poi mi sono sorpresa perché è stato come fare un free session di terapia, è stata una settimana molto intensa in cui incontrare tutti e tutte voi mi ha portato a capire meglio il mio confine. Infatti una parola che avevo comunque inserito anche nella porta era quello di smarginarsi, cioè di cercare di aprirsi, di, se appunto il nostro confine, il nostro perimetro, renderlo sempre più permeabile, e quindi partire da diciamo, ovviamente mettere a disposizione le proprie conoscenze, competenze, sensibilità, ma anche e soprattutto riceverle dagli altri. E la cosa più bella che ho sentito è stata, oltre proprio chiacchierare con ognuno di voi, quindi chiedere dove venivano, quindi conoscere i percorsi, però anche un po' vedere l'effetto che questo percorso ha fatto su chi ce l'ha proposto, soprattutto sulle personalità scientifiche, perché comunque si sentiva che era stata un'esperienza bellissima ed eravate tutti pieni anche di quelle persone scientifiche. Quindi questa cosa è stata molto diciamo forte, quindi insomma in qualche modo fa chissà, magari anche io penso proprio di sì, diciamo, in questo senso. E volevo condividere una cosa che rende anche molto bene la sensazione proprio personale che ho avuto, che è una poesia di Mariangela Gualtieri, che è insomma un'artista che sono molto affezionata. Meraviglia dello stare bene, quando le formiche mentali non partoriscono altre formiche e si sta leggeri come capre sulla rupe della gioia. Sì, senso che spesso mi rendo, almeno come mia esperienza personale agli inizi e insomma, della carriera scientifica, mi rendevo già conto dai primi giorni, dalle cose che venivano, no, scritte, che il rigore scientifico a volte può in un certo senso limitare tutta un settore della mente, la parte più creativa, la parte più giocosa, perché sei sempre un po' diciamo racchiuso in degli schemi precisi, delle azioni quotidiane che fai molto, molto anche ripetitive, ma molto rigorose, ecco, mettiamola così, molto rigorose. Quindi quello che mi aspettavo sicuramente era una maggiore libertà, quindi di risfruttare un po' una parte della mente, la parte appunto più creativa, più giocosa, che forse uno anche nella vita quotidiana un po' perde per i problemi, per le situazioni da affrontare e per la vita quotidiana che spesso non è semplicissima in generale. E quindi questo era quello che mi aspettavo e questo è quello che ho visto, quindi mi sono personalmente rimesso in gioco su questo punto di vista, quindi nel riaprire un po' la creatività, l'essere più giocoso e meno scientifico, quindi un po' anche un discorso di fantasia, diciamo così. Mi è piaciuto molto che rispetto alle altre Summer School, Winter School, che ho partecipato, appunto, sì, certo, non è possibile immaginare che sono le altre create, che appunto c'è molto meno, o comunque un po' meno tradizionale, il lato scientifico, è stato un processo molto più creativo, molto più giocoso e anche nel conoscere altre persone che provengono da differenti background, appunto più, meno, tra virgolette, scientifici. Questo mi ha molto colpito anche parlarci, quindi avere uno scambio di opinioni, di idee. E, oltre questo, era anche molto importante una riconnessione proprio con l'ambiente, con me stesso. Ho sfruttato anche questa settimana proprio per fare un po' questo tipo di percorso.